Effetto Giorno di Alessio Maurizi. Caso Gregoretti, oggi il voto sulla richiesta di arresto per Salvini, che dice sono pronto per la prigione, ma la maggioranza potrebbe non presentarsi. 2.000 paperoni sono più ricchi di 4 miliardi e mezzo di persone. Le diseguaglianze nel rapporto Oxfam al Forum Economico di Davos. Potenza, tifoso investito dall'auto degli ultra avversari, 25 persone arrestate. Pioggia e vento ripuliscono l'aria dallo smog nei comuni lombardi e a Torino. Da domani stop ai blocchi del traffico. Calcio, Serie A, Juve più 4 sull'Inter. Stasera il posticipo Atalanta per il quarto posto contro la Spal. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie a metà giornata su Radio 24. Nei prossimi 15 minuti la sintesi della giornata di oggi, poi dalle 13:15 i nostri approfondimenti. Cominciamo con la politica, parleremo tra poco della decisione della maggioranza che potrebbe non presentarsi in giunta per le immunità, dove è atteso il voto sulla richiesta d'arresto nei confronti di Matteo Salvini. La politica dunque tra poco, ma cominciamo dall'allarme che avete sentito dai titoli che arriva dal World Economic Forum di Davos e riguarda le disuguaglianze globali. Da parte allarme lanciato dalla parte della ONG Oxfam, le 2.000 persone più ricche al mondo, pensate che superano il patrimonio di 4 miliardi e mezzo di quelle più povere. Alla vigilia del World Economic Forum di Davos, l'ONG Oxfam lancia un nuovo allarme sulla diseguaglianza sociale. Secondo il suo ultimo rapporto, i 2.153 paperoni mondiali hanno in mano l'equivalente di ciò che ha il 60% della popolazione mondiale, sono quindi più ricchi di oltre 4,6 miliardi di persone. La quota di ricchezza della metà più povera dell'umanità, circa 3,8 miliardi di persone, non sfiora invece nemmeno l'1% del totale. A restare ampie sono anche le differenze di genere. Nel 2018 gli uomini possedevano il 50% di ricchezza in più rispetto alle donne. Le diseguaglianze, comprese quelle di genere, si fanno sentire anche nel nostro paese. L'1% degli italiani ricchi detiene quanto il 70% della popolazione nazionale. In Italia l'ascensore sociale è bloccato da anni, avverte Oxfam, secondo cui per i discendenti del 10% più povero della popolazione ci vorrebbero 5 generazioni per arrivare a percepire il reddito medio nazionale. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Era un'ultima ora, una notizia uscita pochi secondi fa: una donna si è cosparsa di liquido infiammabile e si è data fuoco davanti alla sede del Tribunale dei Minori di Mestre. Il gesto, a quanto si apprende, sarebbe da mettere in relazione ad un procedimento della giustizia civile che vedeva coinvolta questa donna. E adesso, come detto, la pagina politica, con la temperatura che sale nello scontro tra la maggioranza e l'opposizione sul voto previsto per oggi pomeriggio alla giunta per le immunità sulla richiesta di arresto nei confronti di Matteo Salvini. Facciamo il punto con Elisabetta Fiorito. Ciao Betta. Sì, allora Alessio, Matteo Salvini si dice pronto alla prigione per la libertà, ma è probabile che il voto nella giunta per le autorizzazioni del Senato sia nulla. La maggioranza infatti è intenzionata a disertare la seduta per evitare una strumentalizzazione di un'eventuale autorizzazione a ridosso del voto in Emilia-Romagna. L'ex ministro dell'Interno, ricordiamo, accusato di sequestro di persona per non aver fatto sbarcare 131 migranti a bordo della nave Gregoretti lo scorso luglio per 3 giorni. Ma il presidente della Giunta, Maurizio Gasparri, spera in un voto sul merito. Sentiamo Gasparri. Il problema è che qua si deve parlare del merito, non del calendario, le elezioni, quella. Il merito è assolutamente inoppugnabile, dimostra come il governo abbia condiviso e anche Conte abbia partecipato alla gestione della vicenda. E invitare tutti a discutere della questione di merito. Per Nicola Zingaretti del PD, Salvini fa uso politico della giustizia per ottenere l'impunità, mentre dalla Lega Riccardo Molinari attacca, la maggioranza vigliacca scappa dal voto e adesso si attende proprio il voto previsto per le 17. A te Alessio. Grazie Elisabetta Fiorito, e adesso allarghiamo la pagina e andiamo sulle notizie dall'estero. L'Europa sta ancora valutando l'ipotesi di creare una propria missione militare in Libia, così come notizia di questa mattina potrebbe rilanciare anche l'operazione Sofia, un'operazione nel Mar Mediterraneo. Ma cosa resta delle attese di pace che c'erano alla vigilia della conferenza di Berlino? Sentiamo. Abbiamo aperto un percorso, ma non tutti i problemi sono stati risolti. Così Angela Merkel al termine della conferenza di Berlino. D'altra parte, le distanze tra i due leader libici al-Sarraj e Haftar sono evidenti. Non si sono stretti la mano, non si sono parlati, non hanno neppure voluto stare nella stessa stanza e soprattutto non hanno firmato il documento finale. 6 pagine e 55 punti in cui si traccia un percorso che parte da una tregua immediata per arrivare attraverso regolari elezioni all'insediamento di un nuovo governo libico unitario. Hanno accettato però la tregua e l'embargo sulle armi, il premier Giuseppe Conte. Ci possiamo ritenere soddisfatti perché comunque abbiamo compiuto dei passi avanti. L'Italia è pronta a recitare un ruolo di primo piano per il monitoraggio della pace in Libia, ha scritto oggi su Facebook il ministro degli esteri Luigi Di Maio. Ieri però a Berlino non si è parlato ufficialmente di una missione di pace. C'è poi la questione petrolifera. Haftar ha bloccato i terminal petroliferi. Si capirà oggi se il bicchiere di Berlino è davvero mezzo pieno o mezzo vuoto. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a proposito della questione del petrolio, non è ancora chiaro se e quando i campi petroliferi e gli oleodotti bloccati dalle milizie di Haftar verranno riaperti. Sentiamo a questo proposito Massimo Nicolazzi, responsabile dell'osservatorio energetico dell'ISPI, al microfono di Valentina Furlanetto. Fino a ieri la NOC, cioè la società petrolifera di Stato, ripartiva i flussi tra i due. Non è che fosse controllata solo dall'uno o dall'altro, no? C'era un qualche meraviglioso accordo per cui un po' di soldi andavano da una parte e un po' di soldi dall'altra. Che cosa abbia indotto Haftar a bloccare i pozzi in una situazione in cui comunque incassava anche lui, per me resta un po' misterioso, ma è un dentro le cose libiche molto più da questione, come dire, di analisi politica che non questione energetica in quanto tale. Ecco, l'Italia quanto è dipendente dalla Libia in termini energetici? Grosso modo il 12% delle nostre importazioni di greggio negli ultimi mesi era di greggio libico, che vuole fondamentalmente dire poco più di 100.000 barili al giorno, che è cosa che sul mercato trovi da un altro fornitore senza particolari difficoltà. E ora con la cronaca torniamo in Italia. È scattata nella notte una nuova maxi operazione da parte delle forze di polizia a Foggia, che ha visto impegnati centinaia di agenti tra polizia, carabinieri e guardia di finanza a caccia di latitanti della criminalità locale. Dalla nottata è in corso una nuova maxi operazione da parte delle forze di polizia nel cuore della città di Foggia. Centinaia di agenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza hanno eseguito decine di perquisizioni e controlli a tappeto in contemporanea nelle aree più sensibili del capoluogo alla ricerca di armi, sostanze stupefacenti e eventuali soggetti latitanti. Contestualmente gli uomini della Polizia di Stato hanno eseguito alcuni provvedimenti di fermo emessi da un pool di magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari e della Procura di Foggia nei confronti di soggetti ritenuti autori di tentate estorsioni a danno di imprenditori foggiani. Onofrio D'Alesio, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bari. La polizia ha arrestato 25 persone per la morte di Fabio Tucciarello, il 39enne tifoso della Voltur Rionero del campionato di eccellenza lucana. Si tratta dell'autista dell'auto che aveva a bordo i tifosi del Melfi, che ha investito Tucciarello e di altri 24 tifosi. Le accuse, oltre a quella di omicidio, sono violenza privata e possesso di oggetti atti a offendere. Ritirare le due squadre dal campionato di eccellenza è l'ipotesi emersa stamane nel corso della riunione straordinaria del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. A suggerirla ai presidenti della Vultur Rionero e del Melfi è stato il prefetto di Potenza, annunziato Vardè. Dopo i fatti di ieri, un'intera regione sotto shock, in tutto il Vultur è rafforzata la presenza di polizia e carabinieri. Dall'alba sono in carcere il tifoso 30enne del Melfi alla guida dell'auto che ha travolto e ucciso Fabio Tucciariello, 39 anni, è accusato di omicidio, e 24 compagni di tifo della vittima, ritenuti responsabili di violenza privata e possesso di oggetti atti ad offendere. Secondo l'ultima ricostruzione, erano stati i tifosi della Vultur a tendere un agguato a quelli del Melfi lungo la provinciale Avaglio, un'azione premeditata, un episodio gravissimo, ha commentato il prefetto di Potenza. Nel frattempo sono stazionarie le condizioni di un altro tifoso travolto dalla vettura, operato e ricoverato in osservazione all'ospedale San Carlo. Andrà Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E nuova operazione contro il sommerso al nord Italia. La Guardia di Finanza di Brescia ha smantellato una rete di 250 lavoratori in nero impiegati nel settore della ristorazione e dell'organizzazione di eventi. Alcuni dei coinvolti, a quanto si è appreso, percepivano anche l'indennità di disoccupazione e il reddito di cittadinanza. Si torna invece a parlare di aggiustamenti del sistema pensionistico, sentiamo quali. Superare quota 100 è possibile, la flessibilità dell'età pensionabile rispetto ai 67 anni va garantita, ma con il ricalcolo contributivo dell'assegno, come avverrà per tutti dal 2036. Il presidente dell'INPS, Pasquale Tridico, lancia la sua proposta sull'uscita anticipata dal lavoro in vista dell'incontro tra governo e sindacati sulle pensioni in agenda il 27 gennaio. È anche necessario, spiega in un'intervista a Repubblica, prevedere pensioni di garanzia per i giovani coprendo i vuoti contributivi dovuti al lavoro precario. L'idea di anticipare il pensionamento con il calcolo tutto contributivo non piace alla CGIL. Sarebbe un sistema molto penalizzante, sostiene il segretario Maurizio Landini in un'intervista alla Stampa. Un sistema pubblico, spiega, deve contenere elementi solidali. Una vera riforma delle pensioni, prevedendo un'uscita flessibile a partire dai 62 anni, è necessaria, dice Landini, perché è evidente a tutti che la legge Fornero ha aumentato le disuguaglianze e non ha risolto i problemi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Tornano sotto i livelli consentiti le polveri sottili nell'aria, almeno in Lombardia, e così da domani sono revocati divieti e le limitazioni antismog, nei comuni che avevano aderito ai blocchi nelle province di Milano, Cremona, Pavia, Lodi e Mantova. Stessa cosa anche a Torino, dove pioggia e vento nei giorni scorsi hanno ripulito l'aria dall'inquinamento e pertanto verranno rimossi i blocchi al traffico a partire da domani. Siamo allo sport, si completa questa sera il quadro della giornata di Serie A, poi c'è il tennis e tanto altro. Carlo Genta, ciao Carlo, buongiorno. Ciao Alessio, ciao, buongiorno a te. Testa coda questa sera Atalanta-Spal per chiudere questa giornata, nella quale la Juve è scappata. L'Inter ha pareggiato 1-1 a Lecce, lo sappiamo, ieri pomeriggio, e ieri sera nel segno di Ronaldo, che ormai insomma un mese e mezzo fa eravamo qui a discutere sulla sua necessità in campo, eccetera eccetera, adesso sono 7 partite che segna, i numeri fanno paura. Sono lì da vedere, da leggere. Comunque la Juventus ha più 4 sull'Inter, potenzialmente ha più 3 sulla Lazio, che deve recuperare i primi di febbraio la partita col Verona e potrebbe scavalcare a questo punto virtualmente l'Inter di un punto. Però la corsa a scudetto è chiusa tutta lì, la Roma torna a vincere, il Milan con molta fortuna e con l'ex forse oggetto misteriosissimo Rebic batte l'Udinese, probabilmente anche oltre i suoi meriti. Qualche spruzzo di VAR qua e là, soprattutto a Lecce. Insomma, di tutto questo parliamo poi con Massimo Mauro, Pierluigi Pardo. Avremo ospite Liverani, allenatore del Lecce, che ieri ha fermato l'Inter. Giusto. E parleremo anche di una questione che guardiamo da lontano, ma almeno io personalmente ho una grande passione, cioè la finale di stagione del football americano, perché abbiamo il Super Bowl che si giocherà tra gli storici 49ers e Kansas City Chiefs. E poi un po' di tennis, perché insomma ci sono tennis, però credo che sia tutto in stand-by. Sì, tutti in stand-by, soprattutto le partite degli italiani che sono state in Australia fermate dalla pioggia che abbiamo invocato a lungo settimana scorsa. È arrivata. Per note questioni, è arrivata, fa saltare qualche match, cioè rinvia qualche match, ma va bene così. Carlo Genta, grazie, ci ritroviamo con tutti i convocati dopo il GR delle 14. Noi invece facciamo una piccola pausa con Effetto Giorno, torniamo tra poco. Dopo il break parleremo ancora di Libia, la conferenza di Berlino, come possiamo definirla, un fallimento, visto che Haftar e Sarraj non sono entrati nemmeno nella stessa stanza, oppure un successo, perché quantomeno si inizia a delineare un percorso di pacificazione. E poi tutto quello che c'è da sapere sul virus cinese, il misterioso virus cinese che ha fatto un'altra vittima in Cina. C'è il contagio tra uomo e uomo, questo sembra confermato dagli infettivologi, ma per il momento la situazione resta arginata in alcuni casi di una zona particolare della Cina. Ne parleremo tra poco in Effetto Giorno. 349-238-6666 per i vostri sms, poi c'è anche la pagina Facebook di Effetto Giorno. A tra poco. Effetto Giorno. Caso Gregoretti, oggi il voto sulla richiesta di arresto per Salvini, ma la maggioranza potrebbe non presentarsi. Libia, dopo la conferenza di Berlino, l'Europa si dice pronta per una missione militare, possibile anche il rilancio dell'operazione Sofia nel Mediterraneo. Rapporto Oxfam sulle diseguaglianze. In Italia l'1% più ricco ha lo stesso patrimonio del 70% della popolazione. Si aggrava il bilancio del nuovo virus della polmonite scoperto in Cina con una nuova vittima, 136 fino ad ora gli individui contagiati a effetto giorno, quello che c'è da sapere sul coronavirus. Pioggia e vento ripuliscono l'aria dallo smog nei comuni lombardi a Torino, da domani stop ai blocchi del traffico. Minuti di nuovo, buongiorno ad Alessio Maurizi, cari ascoltatori, ben ritrovati. Torniamo a parlare della Libia e della conferenza di Berlino. Notizia di questa mattina, il ministro degli esteri tedesco ha fatto sapere che l'Unione Europea è al lavoro per integrare l'accordo raggiunto a Berlino con il rispetto dell'embargo sulle armi, e a inizio febbraio si terrà a Berlino una nuova conferenza di aggiornamento sulla situazione in Libia. È con noi Gianluca Pastori, docente di storia delle relazioni delle istituzioni internazionali all'Università Cattolica. Buongiorno. Buongiorno. Allora, gli obiettivi, forse è meglio dire, di questa conferenza di Berlino erano diversi: era proseguire intanto con la tregua militare nel paese, in Libia, poi definire soprattutto un percorso di pacificazione, di normalizzazione della Libia, cioè a dire un dialogo continuo tra le parti, la definizione di elezioni in quel paese per, diciamo, tornare alla normalità anche democratica, insomma una sicurezza, un esercito comune sul territorio. Quali obiettivi sono stati raggiunti da questa conferenza, professor Pastori? Direi che innanzitutto dobbiamo cominciare a distinguere gli obiettivi che sono stati raggiunti sulla carta da quelli che sono stati raggiunti sul campo. Sicuramente il fatto che si sia tenuta la conferenza e che alla conferenza abbiano partecipato sia Haftar che Sarraj è sicuramente un successo. Il fatto che il cessate il fuoco bene o male regga è sicuramente un successo. Il fatto che la comunità internazionale sia accordata sull'embargo è sicuramente un successo. Quindi, da un certo punto di vista, abbiamo un bicchiere mezzo pieno. La parte, diciamo, vuota del bicchiere riguarda quale sarà il comportamento degli attori sul campo, soprattutto quale sarà il comportamento del generale Haftar se vorrà accettare quelle che sono state le conclusioni di Berlino, dal momento che continua a tenere il coltello dalla parte del manico. Ecco, senta, quindi insomma, lei dice sostanzialmente si può parlare di un successo dal punto di vista intanto del cessate il fuoco che regge, almeno sembra reggere, e del fatto che la comunità internazionale si è mostrata compatta in questa, diciamo, come dire, in questa fase, quindi già una base di lavoro da portare avanti, e teniamoci questo bicchiere mezzo pieno. Ci aiuta a capire però sul terreno questi due, le due parti, Haftar e Sarraj. Sappiamo che c'è una logica di alleanze internazionali, però forse proprio questo non ci aiuta a capire chi è il buono, chi è il cattivo, un linguaggio volutamente semplificatorio, però per che cosa combattono e cosa distingue le due parti? Allora, diciamo che quello che combattono è, in ultima analisi, la ragione per cui combattono in ultima analisi è quella del controllo sul paese. Da questo punto di vista è abbastanza difficile inquadrare la questione in termini di buoni e cattivi. Fayez al-Sarraj è rappresentante del governo sostenuto, diciamo così, dalla comunità internazionale, uscito da quel complesso processo di formalmente riconciliazione nazionale, che in realtà non ha riconciliato molto, che le Nazioni Unite hanno promosso. Haftar, da un altro punto di vista, da questo punto di vista, è quello che vorrebbe violare l'ordine e la legalità internazionale. D'altro canto, sia Haftar che Sarraj sono anche esponenti, o se qualcuno dice anche i fantocci, coalizioni internazionali molto diverse. Sarraj si porta dietro essenzialmente il sostegno turco, Haftar si porta dietro il sostegno della Russia, dell'Egitto, degli Emirati e di una serie di attori regionali che per loro motivi sostengono la sua posizione. È un gioco in cui non ci sono buoni e cattivi, allora, in cui la prova sì, è una prova di forza. Professor Pastori, difficile distinguere, lei dice, tra buoni e cattivi, e allora invece, avendo a mente due nemici, immagino comuni, che sono i terroristi islamici dell'ISIS, pure presenti sul territorio nordafricano e anche in Libia, e anche la questione che riguarda il traffico dei clandestini, queste due componenti è possibile individuare, diciamo, in che modo e diciamo, sostenendo chi è possibile contrastare maggiormente questi due nemici? Terrorismo e traffico di esseri umani si fondono in questo momento essenzialmente sulla instabilità della Libia. Non è tanto questione di chi dei due avrà la meglio la risoluzione del problema. La risoluzione del problema dipenderà dalla capacità di individuare una soluzione stabile per la Libia, qualunque essa sia. È una regola che abbiamo visto funzionare più o meno in tutto il mondo. È l'instabilità, il brodo di coltura di certi fenomeni e di certe minacce. Assolutamente, quindi l'instabilità è il nemico numero uno da combattere. Al momento la situazione in Libia si è leggermente stabilizzata proprio per questa tregua che regge, quindi possiamo, tornando alla domanda iniziale, diciamo, considerare la conferenza di Berlino già un mezzo successo. Professor Gianluca Pastori, grazie per essere stato con noi, buona giornata. E va bene, le prossime ore saranno in qualche modo rivelatorie, appunto come dicevamo in apertura si annuncia un nuovo vertice, una nuova conferenza a Berlino a inizio febbraio, sarà già un'occasione per fare il punto sulla Libia. Adesso invece cambiamo argomento e parliamo del virus definito misterioso, un virus simile alla SARS che fino ad ora ha colpito circa 200 persone all'interno della Cina. Alcune anche oltre confine, 4 per ora, ecco l'ultimo caso in Corea del Sud. Per ora l'epidemia è concentrata soprattutto nella città di Wuhan, il focolaio da cui è partita, in cui ci sono state anche le 4 vittime. Sentiamo Emanuele Nicastri, referente per le malattie tropicali dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Spallanzani di Roma, al microfono di Rosanna Magnano, che gli ha posto alcune domande. Ci sono circa 200 casi al mondo, quasi tutti circoscritti nell'area di Wuhan in Cina, con 4 casi che sono stati diagnosticati al di fuori della Cina e una serie di casi che sono invece presenti all'interno del territorio cinese ma all'esterno della regione dello Wuhan. La notizia positiva è che da qualche giorno abbiamo a disposizione i test genetici per cui abbiamo la possibilità di identificare chiaramente pazienti con questo nuovo coronavirus. Quali sono i rischi possibili per i viaggiatori italiani? È estremamente remota la possibilità che ci siano dei casi acquisiti in Italia. L'Italia è pronta perché ha un sistema di medicina aeroportuale estremamente efficace, per cui viene fatto uno screening dei sintomi della febbre nei viaggiatori al loro arrivo in aeroporto, in particolare all'aeroporto internazionale di Fiumicino che ha un volo diretto dal Wuhan, e nel caso vi sia qualche paziente con questa sintomatologia respiratoria, noi abbiamo la possibilità di trasferirlo immediatamente allo Spallanzani. Qual è l'evoluzione del virus che si prevede? Al momento, con i dati attuali, non siamo in grado di dire qual è la possibilità di trasmissione secondaria da uomo a uomo. Ti è con noi Massimiliano Rugo, consigliere comunale di Bibona, ex dirigente di Fratelli d'Italia, che ha scritto con una lettera alla Sea-Watch di Carola Rackete per offrirsi come volontario nelle prossime missioni che vanno ad aiutare le persone in mezzo al mare. Un ex di Fratelli d'Italia, avete capito bene, che vuol andare sulla Sea-Watch. Buongiorno Rugo. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti. Allora, la sua è una storia quasi da film, perché lei, apprendiamo insomma dai giornali che hanno parlato della sua vicenda, cresciuto in una famiglia con madre operaia comunista, padre missino, fedele ad Almirante, e già qua sembra appunto di stare in un film degli anni 60, anni 70, ha un passato come sommozzatore nella Marina Militare, lavora a Pisa nella Polizia Locale, da sempre fedele ai valori della destra sociale, è entrato in Fratelli d'Italia un po' di tempo fa, e adesso ha lasciato il partito perché è troppo schierato con i leghisti. Questo è quello che ha dichiarato lei, ma la cosa che ha fatto, diciamo, più discutere è questa sua decisione di scrivere alla Sea-Watch di Carola Rackete per imbarcarsi. Una scelta strana per chi come lei ha militato in un partito che ha anche chiesto il blocco navale. Ma io non ci vedo sinceramente niente di strano, tant'è che ho voluto aprire un po' questa riflessione, specialmente nel centrodestra al quale io mi ritengo comunque sia sempre un addetto ai lavori, anche se mi sono dimesso e quest'oggi mi sono anche dimesso da consigliere comunale, nel rispetto del partito che mi ha dato la possibilità e nel rispetto del Consiglio Comunale e dei cittadini che mi hanno votato. Non ci vedo niente di strano nel salvare le vite in mare, a prescindere che io possa essere a bordo su una ONG, e questo magari posso averlo anche detto a scopo di, appunto, di creare un interesse su questa problematica. Io non ho alcun dubbio che Giorgia Meloni, se si trovasse in mezzo al mare in vacanza su una barca e trovasse dei bambini che stanno per affogare al largo di Lampedusa, non esiterebbe un attimo a buttarsi in mare a salvarli. È questo il messaggio che io voglio fare passare. Sì, però sì, prego, prego Ugo. No, dicevo, ci sono i diritti fondamentali degli esseri umani, c'è la Costituzione della Repubblica Italiana, ci sono le convenzioni internazionali e io ritengo doveroso che un politico di qualsiasi caratura, di qualsiasi livello, dal piccolo consigliere comunale di paese come sono stato io, e al parlamentare, al senatore, rispetti questi principi fondamentali dettati dalla nostra Costituzione e porti il dibattito politico, anche lo scontro pure aspro e acceso su questi temi, ma nel rispetto delle leggi e delle convenzioni internazionali, cosa che purtroppo oggi non c'è. Però lei dice, lei non si sente strano, pur essendo di destra, dichiaratamente di destra, a offrirsi come volontario per andare su una nave ONG a salvare vite umane nel mare, ma allora, al di là della frase sulla Meloni che se si trovasse in mare aperto le dice non esiterebbe sicuramente a salvare una vita umana, però la politica della destra italiana, dalla Meloni a Salvini, fermissimamente contraria agli sbarchi, fermissimamente contraria all'intervento delle ONG, è molto distante dal suo modo di vedere, o no? No, io dico di no, perché essere distanti è... bisogna vedere da quale prospettiva si guardano questi concetti. Giorgia Meloni dice una cosa assolutamente diversa da quella che dice il senatore Salvini. Giorgia Meloni è per il blocco navale e io condivido e rispetto la sua linea politica. Giorgia Meloni può dire no, non va bene che le ONG vadano in mare a fare questo se lo fanno con il solo fine di trarne un profitto. Cioè lei può pure aprire un dibattito su questo, accertiamo se è vero, se non è vero, se fanno bene o se non fanno bene, però a prescindere da tutto questo le vite in mare si salvano. E nel dibattito politico, più che altro nel dibattito politico da bar, che oggi si è trasferito tutto sui social media, che è diventato uno strumento di massa anche un po' pericoloso per la tipologia dei messaggi che magari in buona fede vengono trasmessi in un modo ma in un altro, e quindi si arriva a dire delle cose aberranti. Poi magari può anche capitare il politico non preparato, sia del piccolo paese, sia ad alto livello, che possa magari tirare uno sfondone, mi passi il termine, perché magari non è proprio preparato su questi argomenti dal punto di vista giuridico. Massimiliano Rugo, ci faccia sapere se riuscirà ad imbarcarsi effettivamente sulla Sea-Watch, perché in quel caso sentire i suoi racconti da lì secondo me sarebbe molto interessante e io le chiederò di farceli nel caso. Grazie per ora per essere stato con noi. La ringrazio io, ringrazio il pubblico e tengo a ringraziare Giorgia Meloni e Giovanni Donzelli che mi hanno sopportato in questi anni, sopportato e supportato. Chissà se più supportato, più sopportato. Su questa domanda, scherzo, ci lasciamo. Rugo, grazie per essere stato con noi. 349-238-6666 per i vostri messaggi, anche su questa storia se volete, e poi c'è la pagina Facebook di Effetto Giorno per commentare tutto quello che avete sentito fin qua. Ci risentiamo tra poco dopo il break. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta. Colesterolo? Prova Colesterolact. Colesterolact contribuisce a mantenere livelli normali di colesterolo nel sangue. Colesterolact, 2 mesi di integrazione a soli €19,90. Acquistalo in farmacia e parafarmacia. Una pecorella, due pecorelle, tre pecorelle. Difficoltà nel prendere sonno? Stress? Smetti di contare le pecore. Conta su Melatonina e Valeriana Act. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia. Anno nuovo, Colombo. Tempo di buoni propositi, eh? Sì, buttar giù la pancia, per esempio. Ma se riuscissi a trovare una soluzione gestionale innovativa per digitalizzare il mio business... Provi Fluentis ERP. È gratis per 30 giorni. E se scegli un'installazione in cloud, i primi 12 mesi sono scontati del 50%. Ah, però, interessante, Ghirardi. Vada su fluentis.com, scarichi l'app e potrai iniziare da subito la sua Fluentis Experience. Fluentis. La F che funziona. In cima a una montagna innevata... o in attesa della prossima onda. Ovunque ti portino le tue passioni, seguile a bordo di BMW X3. Il SUV disponibile in versione benzina, diesel o plug-in hybrid è pronto a farti vivere le tue passioni con un bonus di 5.000 euro se permuti la tua auto. Offerta valida fino al 15 febbraio su vetture disponibili a stock. Dettagli su bmw.it e in tutte le concessionarie BMW aderenti. Vuoi aprire un'attività innovativa e di successo? Bene, sto cercando proprio te. Sono Super Zibaldo. Insieme possiamo fare grandi cose. Grazie a me potrai proporre a privati ed aziende tanti servizi. Dall'apertura di conti ai finanziamenti, dai pagamenti alle ricariche, dai servizi postali a quelli digitali e tanto altro. Tutto in un unico negozio. Ti offrirò la formazione e ti affiancherò per le abilitazioni richieste. Registrati su zibaldo.it e riceverai un'offerta promo esclusiva per te. Scegli il franchising Zibaldo. Per te, oltre la banca. Effetto giorno. Caso Gregoretti, oggi il voto sulla richiesta di arresto per Salvini, la maggioranza pronta a disertare l'aula. 2.000 paperoni sono più ricchi di 4 miliardi e mezzo, diseguaglianze in aumento nel rapporto Oxfam presentato al forum di Davos. Cede un tratto di strada a Roma, evacuato un palazzo vicino al Colosseo. Sassari, la moglie se ne va di casa per 48 ore, il marito chiede il divorzio. Per i giudici è lei ad avere torto, la storia di Maria che per un colpo di testa ha perso 20 anni di matrimonio. Calcio Serie A, Juve più 4 sull'Inter, stasera il posticipo Atalanta per il quarto posto contro la SPAL. minuti, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati. I vostri messaggi al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Allora, intanto uno rivolto proprio a me dice: buoni e cattivi, Maurizio, ma chi te l'ha data la laurea in scienze dell'informazione, posto che ne abbia una, Michele? Infatti non ce l'ho la laurea in scienze dell'informazione, ce n'ho un'altra di laurea, ma buoni e cattivi, Michele, perché tu non te lo chiedi chi sono i buoni e cattivi in Libia? Sono solo io a volerlo sapere? Abbiamo intervistato un professore esperto di questioni internazionali di Libia, naturalmente, poi è una semplificazione, però credo che tutti vogliano sapere se c'è una parte, visto che l'Italia sostiene al-Sarraj, per esempio, e non Haftar, tanto per dirne una. Poi ancora sull'intervista che ha suscitato abbastanza reazioni, quella a Rugo, il consigliere di Bibbona di Fratelli d'Italia, ex Fratelli d'Italia, che vuole imbarcarsi sulla Sea-Watch di Carola Rackete. Dice: fate campagna elettorale contro il centrodestra, dopo Salvini ora l'obiettivo è la Meloni, bravi. No, è solo un caso di cronaca, è lui che si è dimesso tra l'altro da Fratelli d'Italia perché si è schierato a fianco di Salvini, non è che siamo noi che gliel'abbiamo imposto. Quante balle racconta sto pseudo politico, è il suo punto di vista, insomma, vabbè, è ovviamente una intervista che ha suscitato diverse reazioni. Adesso è il momento del punto del vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. Sta per cominciare il Forum di Davos, la kermesse che mette insieme i più ricchi e i più potenti del mondo per farli discorrere sulle nuove frontiere dell'economia. Quest'anno immancabile la discussione sulla svolta ecologica del capitalismo, che parte da un'altra svolta, quella che abbandona il profitto degli azionisti come unico faro della strategia delle imprese. D'ora in poi conteranno non gli interessi di breve periodo, ma quelli più generali e che riguardano l'intera collettività e sono di più lunga gittata. Uno dei corollari principali è la sostenibilità ambientale e su questo si sta mobilitando la finanza. Il potenziale già dispiegato tra azioni e obbligazioni è dei 31.000 miliardi di dollari nel mondo. Anche le banche centrali cominciano a inserire l'ecosostenibilità come fattore dirimente per indirizzare la politica monetaria. L'Europa ha predisposto un piano per il Green New Deal da 1.000 miliardi in 10 anni e Intesa San Paolo ha annunciato di poter coprire finanziamenti per 50 miliardi di euro in investimenti green. Insomma, il vento di Greta scuote Wall Street, che probabilmente non cercava di meglio. Il capitalismo riforma se stesso, la finanza trova nuovi filoni di rendita, l'economia gira. È questa la nuova fiaba di Davos e naturalmente vissero tutti felici e contenti. Adesso è con noi Gianetto Regassani, presidente dell'Associazione Matrimonialisti Italiani, avvocati matrimonialisti naturalmente. Buongiorno. Buongiorno a voi. Per commentare la notizia che arriva da Sassari, la notizia è questa: sentenza in primo grado, secondo grado, confermata, se ho capito bene, anche dalla Cassazione, per una vicenda che è questa. Una donna se n'è andata di casa dopo un litigio con il marito, è tornata 48 ore dopo, ha trovato la porta con la serratura cambiata, non è potuta entrare, il marito ha chiesto il divorzio, i giudici hanno dato ragione a lui e non a lei, addirittura le hanno chiesto di pagare le spese del divorzio e poi credo che abbia perso anche l'assegno di divorzio. Lei era una casalinga. Gassani, un caso unico a memoria o ce ne sono di casi simili? Ma è un caso assolutamente unico, diciamo che è un orientamento del tutto nuovo della Suprema Corte di Cassazione che ha penalizzato appunto un coniuge che ha fatto venire meno l'obbligo della convivenza, che è un obbligo sancito dall'articolo 143 del Codice Civile, quindi il famoso abbandono del tetto coniugale, che non è più un reato da tempo, però è stato sostituito da un reato abbastanza simile, che è l'inosservanza degli obblighi di assistenza familiare e la violazione appunto dell'obbligo della convivenza coniugale. Quindi far venire meno la propria presenza, la propria affettività in una famiglia senza un giustificato motivo, secondo gli Ermellini, può costituire motivo di addebito, perdita della casa coniugale, perdita dell'assegno di mantenimento, perché l'addebito produce questo tipo di sanzione. Quindi indubbiamente si tratta di un principio nuovo, perché in tutte le altre occasioni, per la verità, i giudici non avevano considerato che in caso di litigio, per un allontanamento così breve, si potesse arrivare addirittura all'addebito. Quindi chiaramente sta letta la sentenza e bisogna capire quali erano poi le motivazioni. Certo, ci saranno delle condizioni che noi magari non conosciamo, però salta agli occhi. Intanto a me è saltata agli occhi una cosa, cioè una persona che se ne va dopo un litigio per un giorno o due, forse serve anche a tutelare un bene superiore, che è quello, come dire, della incolumità, no? Perché tante volte si può anche trascendere durante un litigio. Uno se ne va a sbollire, la classica cosa: vado, torno domani e trovo la porta chiusa, la serratura cambiata e il giudice che mi dà torto. È assurdo questo, almeno a buon senso. È assurdo almeno dal punto di vista del principio, ripeto, non conosciamo alcuni dettagli. Certamente prima, quando si sostituiva la serratura della porta d'ingresso della casa coniugale, si poteva essere denunciati per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, per cui era anzi un consiglio che noi avvocati davamo sempre, quello di non sostituire. Pensateci bene, perché sennò passate dalla parte del torto. Invece in questo caso, chissà, potrebbe cambiare tutta una serie di comportamenti e anche, come dire, il vostro atteggiamento in alcune di queste cause, Gassani. Certo, perché la prima cosa che i clienti ci chiedono: ma io posso cambiare la casa coniugale? Mio marito è andato via. E noi rispondiamo sempre no, attenzione, ci potrebbero essere svolti penali. Ovviamente questa è una sentenza importante, rivoluzionaria, che andrà letta, perché non sappiamo francamente questa donna questi due giorni che cosa ha fatto e perché è andata via, quindi diventa difficile poi andare a decifrare il messaggio della Suprema Corte di Cassazione. Cioè, per ora è una sentenza unica. Ecco, però dobbiamo anche in qualche modo sospendere il giudizio fino a che non questo caso non si conosce del tutto. Grazie Gianetto Regassani per essere stato con noi. È tutto anche per la puntata di oggi di Effetto Giorno, con Jacopo De Franchi in redazione, Andrea Roccabella in regia, da Alessio Maurizio l'auguro di una buona giornata. Vi lascio ad hashtag Autotrasporti con Andrea Ferro. Ci risentiamo per l'aggiornamento delle 14:00.